scialle labbra lina sul mantello, si congeda il capogruppo, camera partito, un altro substrato, macchine partito, biglietti per lo Stato, sfodera la spada, un altro attentato, tecnici caduti, carro mascherato. Giudizio un po' per tutto, pressione per chi teme, ripicche del momento, poi passa e non conviene. Perde la valuta, col pugno ci saluta, il Chigi resta vuoto, boicotta anche il voto, rispetto per il pranzo, dispetto per la panza.